Fra, mi sveglio con più di qualche problemi. In casa è come in testa, brucio un ponte lì. Ne ritravo mezza sopra il comodino. L'accendo fra, si affaccia tutto il condominio. C'è lei che mi fa suonare il cellulare. Mi ha mandato un'altra nota vocale. Io sto steso sul divano in diagonale. Non rispondo, spero che capisca la morale. Che mi sto facendo male sopra un loop di piano. Non mi importa se lei non mi dice più ti amo. Pure senza lei con l'ane fratello ci chiamo. Domani finisce tutto, tanto ci uccidiamo. Ma te lo giuro che finché dura timbro il cartellino. Faccio entrare queste quattro stronze in camerino. Tra moltiplico le rime, mica il pane e il vino. Corro, corro, corro, fra, voglio arrivare primo. Perché tu non ti ricordi Davide con niente in tasca. Dentro al cuore meno 20, fra, come in Alaska. Ora bevo insieme a una modella nella vasca. Poi spendo 50 euro in un piatto di pasta. Dopo che con mamma già cambiato 4K. Qualcuno chiedeva scusa, dove sta tuo pazzo? Scusa, molli tutto per la musica, sei un pazzo, frate. Per quest'ora la mia canna sembra un raggio laser, frate, sembra un raggio laser. Pazzo, frate, entro sulla base, sono un mattonato. In questa merda, amen, sono il santo padre. Michael Myers, lascio questa scena dentro un altro nave. Faccio questo, scardino la porta senza chiavi del successo, yeah, yeah. Non ho chiesto niente a questa gente, tu puoi anche vestirti fresco, fra. Ma tanto non ci prendi mai. Tanto non ci prendi mai. Tanto non ci prendi mai. Tanto non ci prendi mai. Gente, tu puoi anche vestirti fresco, fra.